Dai e vai. Non è solo calcio. Di Sergio Ferrentino e Luca Gattuso. Sembra il ritmo buono, no? Cioè, il ritmo giusto, no? Dipende da che squadra guardi, perché se il Milan del primo tempo sembra sto ritmo qua, se l'Inter un po' più lento, un po' più pacato. Sì, adesso stanno correndo un po' tutte e due, sì. In questo caso, mi sembrano un po' tutte e due belli piazzati da questo punto di vista. Vabbè, comunque, diciamolo chiaramente, diamo il risultato, 0-1 Milan, in questo caso sta governando un po' questa partita, Balotelli che si è mangiato tutto quello che c'era da mangiare. Beh, facciamo Andanovic, dai, adesso non è che possiamo andare tutte le responsabilità al Balo. Vabbè, tu di quello che vuoi. Scusa. Io dico bravo Andanovic. Bravo Andanovic. Secondo me Balotelli non ha detto che Andanovic è stato cattivo. Ha detto che però Balotelli davanti alla porta da solo con Andanovic davanti, insomma, gli ha tirato addosso ad Andanovic. Sì. 17 minuti, secondo tempo, Milan 1, Inter 0. Però voglio dire, le speranze dei nostri, e non soltanto dei nostri, di tutti quelli che sono andati a San Siro, dato c'è una punizione, dobbiamo seguirla questa qua, questa del Milan, no? Ci abbiamo Montolivo lì sulla palla, esatto. Pronto alla bisogna. Punizione dall'estrema destra, la mette in mezzo, Balotelli di testa, però la prende malissimo, la prende praticamente con la nuca, la palla esce, calcio d'angolo vicino alla bandierina, però non è angolo perché l'ultimo a toccarlo è Balotelli. E quindi non è angolo, quindi non ne possiamo andare. Coi pronostici invece recuperati davanti proprio a San Siro, poco prima dell'ingresso, no? Mentre stavano sfilando i vari tifosi. 2-0 esce Boateng. 0-0. 1-0 per il Milan, rigore di Balotelli all'89esimo. 1-0 gol di Esciaraui. 2-0 doppietta Balotelli. Giusto per il fantacalcio, 2-1 Milan, Niang, Balotelli, Kovacic. 2-0 Inter. Palacio e ranocchia di testa. 3-1 Inter, Palacio Guarini e Sharawi per il Milan. 0-0. Secondo me vince l'Inter, 2-1. 1-0 per il Milan, Boateng. Speriamo una vittoria al Milan, ma mi sa che vince l'Inter, 1-0 per l'Inter. Gol di Cassano. Balotelli, Constant, 2-0. 1-0 Balotelli. 3-1 il Sharawi, Balotelli e Sharawi. 1-0 per l'Inter, di Guarin. 2-0 Inter, Guarin, Palacio. 1-0 Balotelli. 2-1 Cassano e Palacio e Balotelli. 1-0 Balotelli. 1-0 Milito. Non gioca Milito? Non gioca? Allora no. Allora non Milito, ma Cassano. Vabbè, adesso non gioca Milito, si può cambiare. Cosa vuoi che sia, scusa? È ovvio che ha più probabilità Cassano di segnare rispetto a Milito. No, bello quello che uno va al derby Inter Milan, non so se fosse un tifoso dell'Inter del Milan, che va al derby e dice, ma non gioca Milito? Ma non mi hanno avvisato. Allora vado via. Diciamo che però l'Inter non sta facendo proprio una di quelle partite, di quelle che poi rimarranno nella storia, non vorrei esagerare. Però intanto Allegri dice calma, no? In sì. Questo caso. Ecco, diciamo anche ai nostri ascoltatori 349-238-6666, 349-238-6666, per tutti quelli che vogliono già cominciare a commentare sugli SMS, oppure quelli che vogliono continuare a commentare su Face, no? E sulla pagina Face. Di dai e vai, quindi se volete commentare potete già cominciare a metterli i vostri messaggi, tipo poco fa abbiamo messo il messaggio dicendo che il Milan stava dominando la partita, poteva vincere il campionato, la Champions, i mondiali, e da lì sono partiti tutta una serie di altre ipotesi di vittoria del Milan. Qualcuno ha detto che potrebbe vincere la Coppa del Mondo di sci, qualcuno il Conclave, qualcuno il Palio di Siena, qualcuno il Powerball, il Super Enalotto. Lasciaravi di nuovo un'altra cannonata, però niente. Sai quelle cose che fa lui, no? Sì. Si accentra lentamente, no? Va verso, no? Mentre tira giù delle botte incredibili. Mentre stiamo contattando Tiziano Marelli, sì. Perché adesso noi stiamo andando a contattare. Attenzione, perché c'è un altro gol, no, di nuovo Andanovic, grandissima parata. Si è buttato direttamente sui piedi di non so bene chi dei due. Balotelli. Fa veramente incazzare Balotelli. Ha tirato un calcio ad Andanovic. Vabbè, voleva prendere prendere la palla. Sì, però puoi anche andare lì, far finta di interessarti di quello che è accaduto. In realtà credo che non l'abbia preso Balotelli. Chi l'ha preso? L'ha preso, mi sa, Juan Jesus, che era su Balotelli o Ranocchia. Sì, che era... in qualsiasi caso ti informi un attimo come sta il ragazzo, no? No, secondo me è stato Balotelli. Vediamo un po'. Balotelli. È stato Balotelli su, proprio sulla gamba. Sì. Dolore, direi, da questo punto di vista. Eccolo qua, ecco, è andato adesso. Ti ha sentito? Scusa, ne è appena atterrato uno con un calcio in testa. Scusa, fermati un attimo, guarda che cosa gli è successo, no? Ma che modi sono? Però, ragazzi, allora parliamo di cose serie, parliamo con esperti, parliamo di gente che ha scritto libri, cose serie, mica pagliacciate qua e là, no? Parliamo di gente che ha scritto Fedeli a San Siro. E stiamo parlando di Tiziano Marelli e Claudio Sanfilippo, che sono al telefono con noi. Claudio Sanfilippo, fai sentire la tua voce. Eccola qua. Ciao Tiziano, tu sei il milanista, io giusto? Sono il milanista. Andiamo con Tiziano, che invece è interista. Ciao a tutti, buona serata. Dove state? In bagno? Esci dal bagno? No, siamo tutti e due a casa mia e ci stiamo vedendo la partita insieme, questa sì. È la verità. Ci sta dicendo con questo tono, ci state anche un po' disturbando, voglio dire, in questo passaggio. No, assolutamente no. No, ecco. Vabbè. Beh, no, ce n'è uno felice e uno arrabbiato, direi, no? Ecco, sento un po' più basso Tiziano, è più lontano lui, Tiziano? No, siamo più o meno uguali. Ecco. Allora, sono con un tono un po' più basso perché c'è poco da gioire. Sì, vabbè, ma questo voglio dire, siete anche un po' abituati, voglio dire, per certi versi. Allora, tornando a noi, parliamo adesso, intanto parliamo con Claudio Sanfilippo. Hai visto il comportamento di Balotelli, l'hai sentito? Ho stigmatizzato questo suo comportamento. Questo qua dell'ultimo intervento, lui però, devo dire la verità, non mi sembrava ci fosse volontarietà, lui è andato... No, però voglio dire, mentre te ne vai via, invece di ignorare il portiere... No, è vero, poi dopo che mi pare di ricordare che ci è tornato, no? Sì, poi... gli hanno detto tutti i suoi compagni, hanno detto vai là. Sì, no, ma il ragazzo è così. Ne stende uno con un calcio in testa, non se ne accorge neanche, insomma. Prima assicuriamoci di una cosa molto importante con Claudio Tiziano. Qui in studio a Radio 24 è 1-0 per il Milan, anche da voi è risultato lo stesso? Ma più o meno sì, con la differenza che non so se da voi è apparso chiaro e lampante finora che noi avremmo potuto essere sul 2 o sul 3-0, e questo mi fa pensare male, mi fa venire una grande paura, perché la partita finora, tranne il tiro di Guarino, è stata stradominata da noi. Io firmerei il 3-0, ecco, con te da questo punto di vista. Tiziano, tu ti accontenteresti di un 3-0, però va bene, insomma, 1-0 per il momento, no? Ma guarda, io pensavo alla fine del primo tempo di essere almeno 2 o 3 gol sotto. Il fatto che non è successo e che il derby è sempre una partita a sé stante, che il secondo tempo è cominciato in un altro modo, mi fa pensare che forse possa addirittura succedere il miracolo che riusciamo a fare almeno un gol noi e pareggiare, poi dopo magari loro vinto. Ma è troppo sbilanciata questa cosa, mi sembra. Fino a questo momento non c'è stata quasi partita. No. Perché? Perché non c'è stata partita? No, perché è troppo sbilanciata. È sbilanciata perché noi, come dire, non ci siamo in alcuni punti fondamentali. Si è accorto dopo un tempo che bisognava mettere i giocatori dall'altra parte a coprire la fascia perché Guarino lo faceva. Sono qui a vedere la partita col figlio di Claudio, che l'ha detto dal 15° del primo tempo, che doveva fare una cosa del genere, e se non c'è la cosa di Stramaccioni mi sembra abbastanza... E vogliamo parlare un attimo di Stramaccioni, però, Tiziano? Vogliamo parlare di Stramaccioni? Decisamente sovrastimato. Ma possiamo anche farne a meno. Io non ho capito perché abbiamo fatto degli acquisti a gennaio e non ce n'è uno solo in campo. Ecco, vediamo. Ci si aspettava almeno Kovacic che potesse fare qualcosa, non c'è nessuno che costruisce il gioco. Alvarez continua a intestardirsi con degli dribbling che non hanno senso, che perde tutti regolarmente, non lo so. Vabbè, Tiziano, ti sento con una voce veramente amareggiata, e questo mi dispiace, perché voglio dire. No, c'è da dire una cosa, che Stramaccioni ha ascoltato Tiziano, questo grido di dolore, questa denuncia fatta pubblicamente sulle frequenze di Radio 24, questa accusa nei confronti dell'Inter sul fatto che non c'erano gli acquisti di gennaio, e ha messo Schelotti in campo togliendo Cambiaso. Eccolo qua. Credo che sia trattata della scelta peggiore che poteva fare, perché adesso l'abbiamo visto una volta sola e non vorremmo vederlo più. Per il momento, adesso ti fa schifo Schelotto, adesso va male Schelotto adesso. Male, l'ho visto giocare una volta e ho pensato che forse stavo guardando un'altra cosa, perché quando giocava nell'Atalanta quantomeno qualcosa di più l'aveva fatto. Claudio, con noi è stato penoso. Senti, fammi parlare col vincitore, cioè Claudio. No, io mi tocco legno. Ah, ma non era una guffata, o forse sì, non lo so. Claudio, vabbè, dai, se non c'è storia, adesso voglio dire, non c'è proprio possibilità per perdere una partita con una squadretta così in questo caso. È bastato Balotelli? No, beh, Balotelli finora è stato forse quello che ha giocato, a parte le due occasioni bellissime del primo tempo, ma dal punto di vista del gioco è quello che secondo me ha reso di meno là davanti. No, ma a parte oggi è cambiato questo Milan? Scusa? A parte oggi è un po' cambiato questo Milan? Beh no, il Milan è una squadra che innanzitutto una cosa che c'è da... Gol di Scarotto! L'avevamo detto! Incredibile! Tu non bisogna crederci, capito Tiziano? Ma figurati, rilancio tutto quello che ho detto, va benissimo così, Scarotto è un campione. Ma che vergogna! Noi manderemo la registrazione di Tiziano Marelli a Schelotto, ovviamente, per far capire. Andategliela, sono contento, andrò da lui e gli chiederò scusa. Va bene, fermati lì perché abbiamo il traffico qui a Radio 24. Dai e vai. Strade in diretta. Di nuovo buonasera, traffico scorrevole ma condizioni del tempo non favorevoli, sono infatti nato nevicate ancora sull'autosole tra Rio Veggio e Calenzano, più deboli tra Chiusi e Orvieto e poi sui percorsi abruzzesi. Neve anche fra Piemonte e Ponente Ligure, si raccomanda la massima attenzione alla guida e ricordiamo di viaggiare con pneumatici invernali o catene al seguito. Restano code sull'autosole tra Firenze Sud e Reggello dopo un grave incidente avvenuto circa 2 ore fa che ha coinvolto 4 vetture. Prudenza in autosole per la nebbia. Banchi tra Lodi e Parma con visibilità in alcuni tratti ridotti a 60 metri, nebbia banchi anche sulla A15 della Cisa tra Parma e Pontremoli. Infine per i lavori segnaliamo che sulla A4 Venezia Trieste dalle 22 di questa sera fino al 9 marzo è chiuso lo svincolo San Donà di Piave in entrata in entrambe le direzioni, in uscita sulla carreggiata che da Trieste porta a Venezia. Per ora è tutto, a più tardi. Dai e vai. Non è solo calcio. E c'è Schelotto, la la la la la la, e c'è Schelotto, la la la la la la. Vabbè, dai, Tizi, diciamo. È un grande, devo dire. Mi ricredo tutto quello che ho detto, va bene così, sì, vabbè, però, far entrare formazioni. Purtroppo, sai, però, c'è questa traccia indelebile, tu non ci credevi su Schelotto, e quindi voglio dire, vabbè. Credo che non ci credeva nessuno. Ma neanche lui, neanche Schelotto ci credeva, questo è il problema, hai capito? In questo neanche passaggio. Neanche lui, fantastico. Ecco. Adesso voglio dire ci sta andando bene. Milan, diciamo così, diciamo a Claudio. Claudio, dimmi. Il Milan passa, adesso non ti incazzare con noi, Hai già una cosa? Non ti incazzare con noi, ha un tono aggressivo. No, però, adesso. Ecco, se dovessero fare il 2, magari chiudiamo la telefonata e sentiamo dopo. Se dovessero, però non è ancora detto. Allora, vedete il telefono, perché Claudio dice che da quando c'è stata telefonata Milan ha preso il gol e va male, per cui io vorrei tenere il collegamento. Sì, no, non è che possiamo stare qua tutta la sera, ho capito, perché tra l'altro noi volevamo anche parlare del vostro libro, non so se ve ne frega, se ve ne frega qualcosa. No. In questo momento ci stanno pensando, però se vuoi. Vabbè, comunque, no, ecco, se non volevo disturbare sul libro, però Claudio, comunque rimarrà il Milan, che è l'unica squadra che si è beccato un gol di Schelotto, penso, negli questo ultimi 10 anni. Sicuramente è un record un po' poco invidiabile, però insomma la partita, io dico che insomma mi sembra che ci siano ancora un quarto d'ora, ma 20 no, minuti. Non c'è storia, dai, tranquillo, speriamo, Claudio. Bene, perché qua, ragazzi, se non vinciamo un derby così, a parte il fatto che a questo punto potremmo anche perderlo, perché sul 1-1 può succedere di tutto, ma dopo aver buttato via 4 palle gol nel primo tempo è un po' da fastidio. Questo da pirla, si dice. Sì, Milano, sì, sì, no? da molto fastidio. Dobbiamo confessare questa cosa. Io personalmente mi sarei anche molto incazzato. Fedeli a San Siro, dateci a noi, ma date a me no, perché l'ho già letto, quindi non c'è motivo. Voglio dire, ma date una motivazione perché bisogna leggere questo libro. Storie di calcio, di derby e non solo. Scritto da Tiziano Marelli e Claudio Sanfilippo, che sono al telefono. Chi più, chi meno incazzato? Allora, una delle motivazioni fondamentali è la ragione stessa per cui siamo qua io e Tiziano stasera a casa mia a vederci il derby insieme. Serata buca, insomma. Per cui, insomma, diciamo che è quello il tifo caldo, appassionato, ma sempre, sempre rivolto verso l'amabile sfottò e lo stare insieme, il senso dell'amicizia, questo prima di tutto. E poi il calcio come pretesto per raccontare un pezzo di storia della nostra città vista con gli occhi di due bambini, ragazzini, adolescenti che l'hanno vissuta nei loro rispettivi quartieri, uno dalla parte del Milan e uno dalla parte dell'Inter. Tiziano, il resto ve lo dice il nerazzurro qua. Dici, Tiziano, una motivazione per leggere questo libro? Ma perché, come dire, è un modo di vivere il calcio un po' vintage, come diciamo spesso noi quando lo presentiamo. Ma pensi di essere la domenica, Tiziano, non siamo mica la domenica sportiva, adesso dici delle cose belle. Però se vogliamo si rifà anche a quelle immagini che erano in bianco e nero, alla Milano degli anni 70 e 80, fino quando c'erano i derby appunto di Mazzola Riviera, che quelli che ci hanno cresciuto in qualche modo. C'è un po' di nostalgia. La nostra... Sì, molta ce n'è, naturalmente, e la cosa bella che abbiamo sempre potuto modificare, tutti quelli che l'hanno letto ci hanno detto, poi magari ci hanno scritto dicendo, mi ricordo anch'io quando ero all'oratorio, quando vivevo il derby andando a piedi da Piazzale Lotto, queste cose che sono un po' nei ricordi di tutti noi che non abbiamo più 20 anni e che abbiamo vissuto una serie di derby particolari e di momenti. Tra l'altro la nostra amicizia si è cementata sulle scale di casa perché ci siamo trovati come vicini, e si è cementata con il Mondiale dell'82, in qualche modo è stata quella, è stato il momento che ha unito, lo ricordiamo sì, per forza nell'82, perché poi dopo sono iniziate tante cose, e diciamo che comunque la crescita, il passaggio, una generazione che cresce puntando anche su un po' sul derby oltre che su tante altre cose. Noi vi ringraziamo, vi lasciamo ovviamente al vostro derby, magari poi stanotte volevo dirti una cosa. C'è un precedente, ho scoperto, di derby che è capitato lo stesso giorno delle elezioni. In quel giorno Berlusconi si dava Rutelli e l'Inter perse 6-0 contro Milan, fu una giornata epocale per noi interisti. Avevo paura che si ripetesse la stessa cosa fino a questo punto. Arrivati a questo punto posso dire che non accadrà. Noi non possiamo dire nulla perché siamo in par condicio, l'unica cosa che possiamo dire è che la cosa più interessante di questa intervista è quando avete parlato del bianco e nero. E voglio dire. Grazie, una buona serata a voi, ciao, grazie. Come diceva Vujadin Boskov, partita finisce quando arbitro fischia. Bravo, è la sua speranza, perché sennò è fate ovvio. Un pareggio bruttissimo. Ciao, grazie ciao. Claudio, grazie Tiziano. Ciao. Ecco, diciamo che abbiamo liquidato l'evento dedicato un po' a questo derby, che non è ancora finito, no, tra le altre. No, lo teniamo in sottofondo, perché così... Cerca il cross, è così, perché così ci sveglia anche, ci agita in qualche modo. Siamo a 33 minuti, 1-1 fra Milan e Inter, ha pareggiato pochi minuti fa Galgo Schelotto, il gol segnato dal Sharawi al 21esimo del primo tempo. Vogliamo ricordare soltanto il titolo di tutto quanto questo libro, che è Fedeli a San Siro, storie di calcio e di derby, e non solo. Tiziano Marelli e Claudio Sanfilippo, è un libro che secondo me merita leggerlo, non soltanto per quelli che hanno vissuto i derby di Milano. Certo, lì c'è molto più pathos, molto più interesse, molto più emozione, molto più commozione, ma anche io che vince, mi sono disinteressato abbastanza di questi derby. Cioè, per esempio, chi è che vince stasera? Chi se ne frega? Cioè, no, che, beh, non interessa? È vero, secondo me poi qualsiasi squadra tu tenga un minimo di massi. Cioè, secondo te adesso, non so, le altre squadre adesso per chi tifano? Secondo me gli juventini tifano Facciamo un giro di telefonate per quelli che sono all'ascolto in questo momento, 800-24-00-24, quelli che non tifano Inter e Milan, posso telefonare, quelli che tifano Inter e Milan sono davanti alla televisione, quindi stanno guardando il derby. Esatto. Quindi 800-24-00-24, per chi tifate, voi che non tifate. Esatto, voi che siete romanisti, juventini, tifosi del Napoli, della Lazio, vi interessa qualcosa, tifate per... Avete una minima preferenza fra queste due squadre? Ma proprio minima, non possiamo parlare di coinvolgimento nel momento in cui non sei interista o milanista, però se sei magari tifoso del Napoli, Napoli, dici ma preferirei che vincesse l'Inter perché il Milan mi sembra più in forma, quindi diciamolo che intanto con questo punticello che ha in questo momento l'Inter ha preso le distanze dal Catania, sì. Diciamo perché in questo caso il Catania resta a 42 ma l'Inter vola a 44, guarda, vola a 44, raggiunge la Lazio mentre il Milan con il punticello supera la Lazio e va a 45 e arriva in piena zona Champions. C'è da dire che domani sera alle 21 la Lazio giocherà col Pescara in casa, mentre alle 19 ci sarà Udinese-Napoli. 824 0024, ma andiamo direttamente con i risultati di oggi. Oggi si sono giocate soltanto 4 partite, per ricordiamo che Bologna-Fiorentina verrà recuperata martedì, domani come abbiamo detto Udinese-Napoli-Lazio-Pescara. Le 4 partite di oggi: Atalanta-Roma, ha vinto la Roma 3-2 con gol di Marchigno, Pjanic e Torosidis, doppietta di Livaia per l'Atalanta. Il Cagliari ha battuto il Torino 4-3 con gol di Sau e Piniglia su rigore, doppietta di Conti. Il Torino ha segnato con Cerci, Stevanovic e Bianchi. Juventus-Siena 3-0, Lichtsteiner, Giovinco, Pogba. L'ultima partita del pomeriggio: Parma-Catania 1-2 con gol di Amauri e per il Catania Lodi e Checo. A mezzogiorno e 30 c'era stato l'anticipo del posticipo dell'anticipo: Sampdoria-Chievo 2-0, Poli ed Ero. Boateng sta uscendo proprio orora e sta entrando Niang, proprio lui. Ci crede il Milan, eh? Hai visto? Cioè, toglie Boateng e mette Niang, quindi tutto sommato un Milan ancora più aggressivo in questi ultimi 10 minuti di partita. Poi si è riscaldato anche nell'intervallo. Vabbè, sono cose che... No, ci crede, ci sta credendo Allegri, anche se continuava per tutto il secondo tempo a fare segno con le mani, calma, con le due mani aperte verso i giocatori, continuava a dirgli calma. Gliel'ha detto prima del gol e dopo il gol del pareggio, continuava a fare segno, calma. Adesso Niang è in campo per gli ultimi 10 minuti al posto di Boateng. Niang aveva un problema muscolare, per questo che non è partito titolare durante Inter Milan. Beh, sono cose belle. Comunque nel frattempo 824 0024 per tutti quelli che hanno altri pronostici. No, anzi, il pronostico va bene, però la cosa più interessante è capire chi tifate, voi che non tifate, perché questo è poi il problema vero da questo punto di vista. Cioè i juventini in questo momento qua, per chi tifano? Poi che gli dico tipo, la cosa ancora più bella è i sandoriani, per chi tifano, cosa ce ne frega? Sandoriano gliene frega proprio. È quello che sto cercando di capire, no? Beh, forse tifano per Cassano. Ma sì, vabbè, poi dall'altra parte c'era Pazzini anche se non è in campo, quindi non è che puoi tifare in particolare per una delle due squadre, diciamo. Niente di sì, vabbè, se la guardano, sì, non essere così triste. Come se stessero vedendo un film di Bergman, praticamente, più o meno lo stesso atteggiamento. Nel frattempo c'è Palacio sulla destra che subisce un fallo, ma non per l'arbitro Mazzoleni, quindi riparte il Milan sulla destra con Niang. Roberto, pronto? Sì, pronto. Tu buonasera, sono un tifoso juventino, però tengo per il Milan quasi come per la Juve. No, cioè com'è possibile questo? Confusione nell'aria, mi viene da dire. Sono stato un tifoso critico, per cui non mi sono piaciuti in passato una serie di cose della Juve, mentre ho sempre apprezzato che il Milan... Cioè non ti piaceva Sivori come si comportava in campo? A giocare molto meglio della Juve, che e quindi mi è sempre piaciuto il Milan, ecco, come atteggiamento. Quindi ti è piaciuto di più il Milan come atteggiamento in questo caso, è quello che ho capito? Quindi in realtà sì, come atteggiamento all'estero. Io normalmente quando giocano all'estero tengo per quasi tutte le squadre italiane. Ah, ho capito. Ma tu perché l'anno in cui c'è stato il triplete dell'Inter hai tifato l'Inter, quindi? Lì ho avuto difficoltà perché in campo non c'era neanche un giocatore italiano, l'allenatore non era italiano, cioè non c'era veramente niente di italiano. Quindi tu sei presidente, tu cui... ti sta un po' antipatico Messi, insomma, perché non è italiano, insomma, in questo caso. Messi. Quello del Barcellona, piccolino, che c'ha, gioca con veloce. Non lo segue. Lo conosco, ma perché è italiano? No, è argentino. È al contrario, infatti ho detto, non ti piace Messi perché non è italiano. Cioè, voglio dire, visto che tu segui soltanto i giocatori italiani, no, e tifi solo per loro, insomma, quando c'è qualcuno che gioca bene ma che però non è italiano ti dà un po' fastidio comunque. No, ma è normale che in una squadra ci siano giocatori stranieri, va benissimo, anche nel Milan ci sono sempre stati, però l'ossatura era di un vivaio italiano. Ho capito. Non mi piacciono le squadre mercenarie, no? Dove adesso tutte le squadre devono avere tanti soldi, però una squadra che sia è fatta solo di mercenari, non mi piace. Le grandi squadre, il Manchester, il Milan, il Barcellona, non vivaio loro. Perfetto, mercenari, grazie. Quindi come... ciao, grazie. Grazie, no ai mercenari, e scusa il carnevale di Ivrea. Questo è Inter Milan, siamo al 40° minuto, il buon Abbiati prende la palla con le mani e riparte. Diciamo più Inter che Milan in questa fase finale della partita. Diciamo l'Inter non si può dire che ci creda in questa vittoria, però il Milan è un po', per usare un gergo tecnico, un po' cagato, ecco, nel senso che non vorrei poi dopo trovarmi in difficoltà da questo punto di vista, perché non riesco poi a seguirti su questo aspetto tecnico. Tra l'altro neanche hai visto che faccia ha fatto, cioè, cattiva? Abbastanza, con Palacio cioè, in questo caso Shaarawy comunque è lì pronto alla bisogna. Noi stiamo quasi andando però tranquillamente verso la pubblicità, però in questo caso Handanovic, che rimane comunque il migliore dell'Inter, lui dice che ha parato. Attenzione, aggressivissimo Handanovic, perché c'è stata una deviazione su un cross dalla destra, poi Handanovic si è tuffato perché rischiava di andare la palla in calcio d'angolo, sembrava che l'avesse presa, invece è finita in corner, o almeno l'arbitro ha deciso così, lui se l'è presa con diciamo l'arbitro di porta, dicendo che in realtà non era uscita. Seguite attentamente quello che sta accadendo, perché noi andiamo in pubblicità nel frattempo. Dai e vai. Salve, dovrei assicurare la mia auto, vorrei sapere se... Ottimo, e posso avere una quota... Perfetto, grazie. Con Allianz le risposte arrivano veloci come un SMS. Manda un messaggio con targa dell'auto e data di nascita del proprietario al 393-800-3000 e riceverai la tua quotazione RC Auto in pochi secondi. Anche su Allianz.it. Costo SMS in base al proprio piano tariffario senza spese aggiuntive. I dati forniti verranno utilizzati solo per inviare la quotazione. Informativa privacy su Allianz.it. Oggi parliamo a voi, ciclisti urbani, per ricordarvi che quando vi destreggiate negli ingorghi impavidi e inarrestabili, perché né freddo né buio né pioggia vi fermano e intanto dovete cercare qualcosa, è il momento di 89 24 24, per cercare senza smettere di fare. Info e costi 89 24 24.it. Dai e vai, non è solo calcio. Già arrivare però messaggi di pace, come si suol dire, il pari è perfetto, ci suggeriscono al nostro SMS al 349-238-6666. Luca Cancellara lì davanti allo stadio. Luca? Eccomi qui, buonasera. Buon intanto vorrei ringraziare Tiziano Marelli per aver creduto sempre in Schelotto. Ringrazieranno tanti altri milanisti. Sì, hai sentito che com'era caldo su Schelotto, effettivamente. Vabbè. Adesso. Allora, quindi il pubblico comincia ad uscire. Cerchiamo di capire il perché. Uscite per evitare il traffico, perché l'Inter non vi ha soddisfatto questa sera. Ma chi sei? Siamo dai e vai, Radio 24, siamo in diretta. Fermiazioni, se ne devi andare. Pronto? Uno sguardo, direi che dice tutto. Fermiazioni, se ne devi andare. Lei è il milanista o interista? Milanista. Soddisfatto dalla prestazione dei ragazzi? Abbastanza. L'abbastanza non ti legga. Avviciniamo altri interisti soddisfatti della prestazione di questa sera dell'Inter? Mica tanto. Potrei andare molto meglio. Stremazioni? Se devi andare l'ultima partita? No, assolutamente no. Fiducia al mister? Fiducia al mister. Manca un minuto, ecco, Luca, tanto per dire, no? Perché manca un minuto alla fine del secondo tempo. Sì, l'ultimo boato che si è percepito da fuori lo stadio è quando è stato sostituito a Boateng. Sì. Poi da lì direi che... Anzi, adesso ci sono dei fischi semicoadiuvati, perché ci stanno fischiando, perché il pubblico sta fischiando. Perché Muntari sta uscendo proprio in questo momento, in questo caso. Quindi... Perché sta uscendo Muntari, ecco, viene sostituito Muntari adesso ed entra Ambrosini, e quindi probabilmente non si capisce se i fischi erano per Muntari che usciva o per Ambrosini che entrava, però comunque fischi c'erano. Un po' di fischi, non tantissimi. Tu li sentivi molto da lì, insomma. Pronto Luca, ci senti? Sì, sono qui, soddisfatto della prestazione di Milan. Potevamo fare meglio in valore aggettiva, però il padre ha strattonato il figlio perché fa parte, si volgeranno il traffico cittadino. Quindi ormai c'è gente che ormai non crede più in un cambiamento di risultato, però ancora una volta l'Inter è ancora in attacco in questo momento, ancora una volta Schelotto, pericolosissimo. Te lo dico così, con grande affetto, Luca. C'è stato un cross dalla sinistra di Guarin, è uscito Abbiati che ha tolto la palla, proprio l'ha tolta dalla testa di Schelotto che stava per infilare la seconda biglia. Sarebbe stato il festival di Schelotto, avrebbero fatto il monumento a Schelotto a San Siro. Pensa che belle cose. Anche perché Schelotto all'Atalanta era noto per non vedere la porta, cioè nel senso che arrivava giù a testa bassa dalla difesa, arrivava giù sulla fascia e tendenzialmente si schiantava contro la bandierina cercando di fare un cross poco prima. Intanto ancora il Milan tenta la sortita, però a metà campo nulla di fatto, però in questo momento quando mancano mi pare 3 minuti circa di recupero, 3 minuti di recupero, e quindi proprio, È soltanto Inter in questo momento l'attacco. Lo dico anche per Luca, che lì fuori senti delle emozioni oppure senti gente che se ne sta andando e basta, Luca? No, sento soltanto il vostro amore incondizionato per Schelotto, e questo vi faccia capire qual è il vostro orientamento imparziale della partita. No, vero? Schelotto è uno di noi, diciamocelo, no? Come generazione, come simpatia. Ma anche come taglio di capelli, Beh, quello un po' meno, devo dire, per certi versi. Non proprio, insomma, ecco, vabbè. Comunque ancora Inter. Ci tenta, ci prova, attenzione, punizione quasi dal limite, diciamo a 5 metri fuori dall'area. In questo caso Cassano è riuscito a farsi dare questa bella punizione cercando di saltare Ambrosini, che ha una certa età, ed è riuscito invece a tirarlo giù in questo modo, a malo modo, lo diciamo. Seguiamo questa punizione che comunque potrebbe cambiare il risultato, come anche no, non è che siamo così legati anche a queste certezze. Abbiati, che ha fatto una paratona pochi attimi fa, sono in quattro davanti, dietro la palla, e non c'è nessuno dall'altra parte. C'è il solito dibattito. Abbiati ha chiesto 3 uomini in barriera, ce ne sono 2, quindi adesso sta dicendo Nocerino aggiungiti. Nocerino non ci va, quindi ci va Kivu in barriera per essere il terzo giocatore in barriera. Nel frattempo c'è dibattito fra Cassano e Guarin su chi debba tirare la punizione. È ovvio che deve tirare la Guarin. Deve tirare la Guarin, però Cassano la vuole tirare. Infatti Guarin non si allontana dalla palla perché ha paura che tiri Cassano. Vedi che non prende la rincorsa, perché dice: se mi allontano troppo poi tira Cassano. Infatti adesso Guarin la mette morbida in mezzo per un colpo di testa di Palacio. La palla viene tolta dalla testa di Palacio da Mexes in mezzo all'aria. Guarin doveva tirare, se doveva tirare la canocchia, quella forte, boom, no? Questa cosa qua. Mentre invece Cassano magari avrebbe messo giù morbida. Attenzione, perché ancora Milan tenta la sortita, ma il pareggio sembra che vada bene un po' per tutti. Fanno finta di agitarsi qua e là, ma cercano il colpo gobbo. Colpo gobbo non si può dire. Non si può fare. Derby in Termina non si può dire colpo gobbo. Continuano a uscire, scusa Luca. Sì, adesso io mi sono posizionato davanti al portitaro per seguire insieme a voi gli ultimi minuti di derby. Sì, ma come? Ma tu sei lì per fare allora intervista al porchettaro, scusa no, chiedi al porchettaro. Ma hai anche mangiato tu, scusa, voglio dire. Adesso mi sto avvicinando. Cioè chiedi al porchettaro se in caso di vittoria o di pareggio... Sta riscaldando le salsicce. L'intervista non gliene frega assolutamente nulla. Io sono neutrale, non mi interessa neanche il calcio. Non interessa il calcio, però ho deciso di avere quell'attività di fronte a San Siro. Lui non c'entra niente. Ma voi tifa siete milanisti, interiste? Milanisti. Siete milanisti. State seguendo la partita da Giulio o dallo schermo qui su? Non si sentono. Senti, Luca, chiedigli se... Esatto, perché si mangiano più porchette in caso di pareggio o in caso di vittoria di una squadra. Ah, bella questa, bel suggerimento. Sondaggio importante. Meno male che suggerisci. Vendete più porchette e salsicce. Io chiedo, se vince l'Inter. Ma dipende da quale zona giocano. Tipo stasera che gioca l'Inter in casa e abbiamo gli interessi di qua, andiamo più con l'Inter. E ti diamo anche questa notizia, ecco. Luca. Non è ancora finita. Dove c'è l'Inter, no? La curva dell'Inter. Non è ancora finita, ma è finita ora, in questo momento. Naturalmente per il Milan, soprattutto per come dicevamo, erano andati i primi 45 minuti di gioco. Beh, è andata veramente male al Milan, perché il Milan nel primo tempo poteva mettere tre pappine direttamente dentro, e quindi adesso arriverà l'onda barbara che tornerà indietro. E Luca, tu sei nel settore dell'Inter in questo caso? No, io sono nel settore del Porchettaro, che sì, mi stava spiegando le quantità di cibo che mi ha interessato, e per questo ho perso anche il finale di partita, se me lo volete ricordare. Beh, sempre 1-1. 1-1, non avendo sentito Boati ed essendo 1-1 prima. Certo, c'è un tifo sfrenato per l'uscita di Schelotto in questo momento, come tu puoi immaginare. Schelotto 1 di noi, Schelotto 1 di noi. Da Genoano, tifo Milan, ci dicono intanto sui nostri sms, al 349-238-6666. E quindi a questo punto, diciamo, mi sembra che Stramaccioni ha salvato la panchina. Sì, moderatamente. No, come diciamo, moderatamente? Vabbè, già aveva vinto. In Europa League, quindi tutto sommato era abbastanza confermato dal presidente. Certo che se avesse perso 6-0 o 4-0 probabilmente sarebbe stato esonerato. Per il momento, diciamo, anche la prossima se la vedrà seduto dalla panchina dell'Inter. Scusa Luca, non tu, Luca, zitto. Lui Cancellara, Luca, dimmi. Volevo chiedere un panino porchetta peperone maionese, non cipolla? Quanto costa? Cosa viene a costare lì così? Un attimo, torno dal nostro... Ah, perché ti sei allontanato, mi sembra la parte più interessante, voglio dire, di tutta quanta la serata. Arrivo. Eccomi qua. Ho un'altra richiesta da farle. Dimmi Sergio, cos'è che vuoi sapere? Panino porchetta, peperone e maionese. Panino porchetta, peperone e maionese, quanto mi viene questa sera, 24 febbraio 2013, davanti allo stadio di San Siro? Mi pare che sono 5 euro. 5 euro. Scusa Luca, ti devo interrompere perché in questo momento abbiamo Schelotto in televisione. Resta lì, Questo è il mio primo derby, veramente iniziare così con un gol avanti tutti i tifosi dell'Inter, veramente una emozione che non me la dimenticherò mai. Si è parlato tanto quello che ho fatto fuori dal campo, che in realtà si è parlato veramente troppo perché non sono cose vere. Era un'emozione, mi è scappato le lacrime per tutto quello che è successo in tutti questi pochi mesi, e quindi questa è una dedica per la mia famiglia, che per prima volta ho avuto i miei sei fratelli. Sì, sei fratelli. Una da sì. Quando sono arrivato in Italia, per la mia fidanzata Cisela, che è venuta dall'Argentina. Sì, ma una cosa che non mi dimenticherò mai, questo. Sì. Voglio ringraziare la società, a Moratti, a Vicenti, al mister, ai miei compagni che mi hanno accolto benissimo, quindi ho soltanto una sola parola a dire, soltanto grazie. Grazie. Senti, per l'Inter invece questo pareggio... Una sola parola, mentre che parla di ringraziamenti, non è che... La ripresa, cosa è scattato, cosa vi ha detto anche l'allenatore? No, il mister ci ha chiesto di tirare fuori la rabbia, tutto quello che avevamo detto. Meglio ha detto di tirare fuori qualcosa. Abbiamo avuto tante occasioni di gol, magari credo per il mio punto di vista il pareggio c'è un po' stretto perché potevamo vincerla, però niente, è un punto importante, l'importante è continuare per questa strada, no? Senti, a livello personale puoi prenderti l'Inter, cioè questa è una di quelle partite che può diciamo darti la molla per diventare un giocatore di l'Inter, ma figurati. No, io sono venuto qua, ero una mano e devo rispondere in campo e dare la fiducia a quelli che mi hanno è andata bene perché stava togliendosi la maglia ha capito che non era più all'Atalanta, che forse conveniva non togliersi la maglia, e quindi se l'è tenuta. In questo caso devo ringraziare Schelotto, posso fare un ringraziamento ufficiale? Tu personalmente? Io personalmente, perché non ha detto la frase classica che dicono soltanto sia gli allenatori che i giocatori. L'allenatore ci ha chiesto di tirare fuori gli attributi. Ecco, noi ti ringrazio Schelotto di non aver detto questa frase che normalmente ormai circonda No, perché praticamente si è capito, mi ha detto tiro fuori la rabbia. No, però scusa, secondo me questa è una bella frase, questa, è un aspetto formale. Ha detto tirate fuori la rabbia che avete in corpo e andate fuori e fate quello che dovete fare, date una carezza ai vostri bambini, mi dice. Però di fatto diciamolo chiaramente, quello lì c'è stato finalmente un qualcuno che si è rifiutato di dire di tirare fuori gli attributi, che è l'unica frase che tra l'altro gli allenatori riescono, tutti gli allenatori di tutte le squadre continuano a dire, perché a un certo punto bisogna tirare fuori gli attributi, esatto, di fronte a questa partita. Sai chi è che stava tirando fuori gli attributi? No, non voglio saperlo. No, Balotelli. Cioè? Nel senso, mentre c'è stato c'è stata un'inquadratura mentre usciva dal campo, dato che ovviamente essendo in casa l'Inter, la maggior parte dei tifosi in corrispondenza dell'entrata degli spogliatori erano tifosi interisti, probabilmente l'hanno insultato. E lui stava praticamente ha fatto vedere dove ha risposto in questo modo, facendo vedere con la mano dove tiene gli attributi. C'è stato questo gesto nei confronti dei tifosi mentre usciva dal campo. Questo è perché tu vuoi creare artificialmente la polemica. Descrivendo un evento, semplicemente. Cioè, tu non stai descrivendo l'evento, l'evento ormai è già finito. Luca, sei ancora lì? Pronto, Luca? Parlo le parole del simpaticissimo Schilotto, che ormai diciamo è il cuore di tutti, no? Mi spero di capire. No, però guarda che voglio dire, c'è un cose che belle. Sono andati via già tutti? C'è rimasto lì qualcuno ancora? Allora, vediamo. Interista o milanista? Interista. Soddisfatto della prestazione dei ragazzi, si poteva dare qualcosa di più? Schilotto mi ha salvato però questa sera. Non sono assolutamente soddisfatto, ho visto un primo tempo ridicolo da parte della squadra, un atteggiamento piuttosto rinunciatario a livello agonistico. Secondo tempo è solo stato un rimedio a un primo tempo disastroso e un errore di impostazione della squadra. Per Mazzoni deve rimanere, può fare qualcosa o bisogna cacciarlo? Può fare tranquillamente l'allenatore dei ragazzi, ma bisogna prendere un allenatore competente. Cioè, visto che stai nel derby con il cosiddetto della Novara. Novara è la sua prima squadra, quindi l'Inter è la prima seconda. Facciamo il contrario. Ma sì, è un tecnico del settore? No, sono stato un pessimo giocatore dilettante e poi allenatore dilettante. Che ruolo giocava? All'inizio carriera appunto, poi ho finito a fare il difensore centrale. Vabbè, parliamo. Come attaccante se non ha fatto molto successo, sarà retrocesso fino alla difesa. È scappato via. No, perché dopo le dure accuse di Luca Cancellara, non ho capito che cosa è successo. Cosa hai detto, Luca? Gli ha detto che come attaccante non ha fatto molto successo, visto che poi ha terminato la carriera come difensore. Dai. Luca, grazie, è stato bello. Torna pure a casa anche tu stasera. Fa freddo lì, ha già messo giù. Fa freddo, sì. Va bene, ciao. Grazie, è stato bello. Non si sente più nulla. Ciao, sono momenti difficili che vogliamo veramente perdere, perché trovarli. Andiamo direttamente col traffico. Dai e vai. Strade in diretta. Di nuovo buonasera, in un contesto di traffico scarso e scorrevole segnaliamo ancora però le condizioni del tempo che non sono favorevoli, nevica, al momento ha ripreso a nevicare anche in Lombardia, è presente neve sulla 4 tra Milano Est e Seriate e poi nevica ancora in autosole tra Rio Veggio e Calenzano, sui percorsi abruzzesi e poi torniamo al nord per segnalare neve più debole anche in Piemonte sul ponente Ligure, si raccomanda quindi la massima attenzione alla guida e di viaggiare con pneumatici invernali o catene al seguito. Restano code sull'autosole tra Firenze e Sudereggello dopo un grave incidente avvenuto ore fa che aveva coinvolto 4 vetture. Prudenza in autosole anche per la nebbia che si incontra a Banchi tra Lodi e Parma e sulla A15 della Cisa tra Parma e Pontremoli. Infine una segnalazione per i lavori sulla 4 Venezia Trieste dalle 22 di questa sera fino alle 9 marzo resta chiuso lo svincolo di San Donà di Piave in entrata in entrambe le direzioni, in uscita sulla carreggiata che da Trieste porta a Venezia. Ed è tutto, a più tardi. Dai e vai, non è solo calcio. È solo un gioco, Paul. Non mi dire così, per favore, è la cosa peggiore, la più stupida che uno potrebbe dire. Perché mi sembra evidente che non sia soltanto un gioco. Sì, insomma, se lo fosse, pensi forse che me ne fregherebbe così tanto? Eh? What's this? Vabbè, io parlerei ancora di questa partita, ma diciamo che abbiamo cose anche più importanti, anche più curiose seguire, no? Più curiose. Perché? No, va benissimo. No, se vuoi parliamo ancora di Schelotto. No, in questo caso, no? Cioè... Galgo Schelotto, 1-1. Ecco. Vabbè, parliamo di che cosa? Parliamo di un allenatore italiano che prende e parte e va negli Stati Uniti. È un'altra fuga di piedi in questo caso, no? In questo passaggio. Sì, esatto, fuga di piedi. Così, detta così, sì. Però di fratto è così. Per l'allenatore, no. È fuga di cervelli calcistici. Fuga di cervelli calcistici, perché c'è un allenatore italiano, appunto, che si chiama Antonio Cincotta, ex Fiamma Monza, che è stato chiamato ad allenare nel campionato professionistico femminile statunitense, uno dei campionati professionistici più importanti al mondo per quanto riguarda il calcio femminile, uno sport che è molto seguito negli Stati Uniti. E noi abbiamo al telefono proprio lui, Antonio Cincotta. Buonasera a tutti. Tutto bene? Tutto bene, grazie. Sì. Interista o milanista? Milanista, ho seguito alla radio la partita. Come la radio? Sì, perché non avevo Sky questa sera, stavo lavorando al computer. Quindi... Scusa Antonio, devo dire una cosa a Luca. Come si vuol dire questa tua sorpresa? No, un allenatore. È normale che si segua la radio anche le no, partite. No, ma l'allenatore deve essere lì con la gente. Prima di Sky, cioè seguiva la radio, hai capito? Di Colo Caroso. Tu cosa stai facendo? Radio, non no, è che hai capito? È l'allenatore. Stai facendo una pizza. Deve aggiornarsi lì con l'agendina per rubare gli schemi sui calci d'angolo, rubare le azioni. Non ti aggiornare troppo, sennò ci cacciano da qua. Non ti aggiornare troppo, se no ci cacciano da Radio 24, quindi resta con noi in questo caso. Dai, Antonio, parliamo di cose serie, parliamo di questo che cosa è successo, nel senso che tu vai a guidare, ce ne vai tranquillamente negli Stati Uniti e vai a guidare una squadra di calcio femminile, dopo aver guidato e fatto l'allenatore di calcio femminile qui in Italia, dove? Sì, da diversi anni, in diverse società, l'ultima è il Fiamma Monza. La Fiamma Monza, no? Giusto? Ecco. Sì. Famosa, tra l'altro, Fiamma Monza per Ronaldinho, tutti di... Sì, esatto, qualche anno, diversi anni fa, sì. Giocava Ronaldinho, è certo, vero. Certo, vedi che anche noi abbiamo una certa grande età. Sì, abbiamo dei riferimenti calcistici un po' così, però effettivamente... Tu andrebbe... Ronaldinho non era un riferimento calcistico, no, non volevo darti questa notizia. Ma guarda che lei faceva milioni di miliardi di palleggi. Tu andrai a guidare il Seattle PH America, giusto? Esatto, ecco, esattamente. Come mai hanno scelto proprio te? Guarda, questo andrebbe chiesto in particolar modo a loro. Diciamo che quello che mi hanno raccontato quando mi hanno contattato è che stavano cercando un allenatore italiano, poiché hanno deciso di investire prendendo anche diverse calciatrici italiane, e sono risaliti a me semplicemente perché lo scorso anno sono stato premiato in Italia con la panchina d'argento come miglior allenatore della A2 femminile. Ah, non perché sei l'unico su Face, no. E sono poi anche uno dei pochi su Facebook, quindi, no? Come allenatore di calcio femminile, no, diciamolo, sì. Chiaramente loro ti hanno seguito perché hai vinto che premio, ripetilo? Lo scorso anno la panchina d'argento. Ah, vabbè, insomma, questa cosa. La panchina d'argento, ricordiamo, il premio assegnato dagli allenatori di calcio femminile nelle varie categorie, la panchina d'oro per la Serie A e per quanto riguarda la seconda categoria, la panchina d'argento, giusto? Esattamente. Bene. E quindi tu sei stato il miglior tecnico del 2012. Il campionato statunitense, quello di calcio femminile, è uno dei più importanti a livello mondiale. Quindi... Sì, è il più importante al mondo, soprattutto per la visibilità. Va bene, poi sono bravissime, sono campionesse olimpiche, vicecampioni del mondo e hanno veramente un seguito di tifosi straordinario, al contrario dell'Italia, dove è molto meno noto, meno visibile. Qui stiamo parlando di un grande campionato in questo caso. Sì. Sono 70 squadre in tutta America, quindi è una grande manifestazione sportiva. Senti, ma facci capire questa decisione, l'allenatore italiano con anche giocatrici italiane, ho capito esatto, bene? Sì, ritengono che ci siano molti talenti in Italia che possano essere valorizzati in un campionato d'élite come il loro, e hanno deciso quindi di investire dando l'opportunità ad alcune calciatrici di andare a giocare in America. Antonio! Qualche nome così dai, se abbiamo già messo gli occhi. Hanno presentato alla stampa settimana scorsa Alia Guagni, che è una delle più forti giocatrici d'Italia e milita nel Firenze. Nel Firenze, ho capito. Alia Guagni. Qui sono piedi che vanno all'estero, diciamo, in questo caso. Come sì, esattamente, piedi che vanno all'estero. Perché se no diventa un po' strana. Poi altri nomi che circolano così che potrebbero attraversare. Domani verrà presentato Giulia Nasuti, che viene definito uno dei centrocampisti più forti d'Italia, il Pirlo del calcio italiano. Ecco, ma quanti sono le giocatrici che se ne andranno via? Dovrebbero essere essere circa 12 calciatrici. 12, quindi alla grande, cioè si fa un bella, una bella squadretta, poi dopo c'è un po' di riserve americane in questo caso. Il 50% della rosa, ora non so chi sarà riserva e chi sarà titolare, comunque dovranno coesistere queste due realtà. Mm. Quindi grande investimento a questo punto. Sì, un'idea di scambio culturale molto carina, molto originale. Mm. Ecco, senti, tu andrai come tecnico da solo o hai uno staff che ti porti dietro con allenatore in seconda? Verranno, dovrebbero venire con me le persone che hanno lavorato a Monza insieme a me. Mm. E nonché il team manager dovrebbe essere il direttore della comunicazione del Brescia femminile, Fabio Cimmino. Sì. E quindi ci saranno alcune persone dall'Italia che si muoveranno con me in America. Scusa, facci capire, ma non è che Fiamma Monza poi chiude, no? Cioè, no, non chiude, anche perché io da Fiamma Monza sono stato esonerato quest'anno. Ah, quindi va bene allora così. Sì, sì, dopo la prima sconfitta mi hanno fatto subito fare le valigie e via. Ma dai, alla prima! Prima con la Fiorentina, 3-2 per loro e sono stato mandato a casa. Ma che modi sono? Colpa della Guagni, colpa della Guagni, te la porti negli Stati Uniti. Ha fatto gol e la porti in America. Quindi durissima rappresaglia, adesso ti porti via tutto lo staff. Senti, noi ti ringraziamo moltissimo per la tua disponibilità. Grazie a voi. Grazie, buone cose, complimenti. Tante belle cose intanto lassù. Grazie. Ciao. Arrivederci. Senti, presentiamo un po' un pelo di Strama. Strama ci vuole, al dai. Pelo proprio, arriva Strama. Vede la sua squadra soffrire in qualcosa, è normale che stia lì per cercare di rimettere le cose nel migliore dei modi e aiutare a fare meglio, però il merito del cambio d'atteggiamento, io posso dare il mio contributo negli spogliatoi, ma è tutto dei ragazzi, ragazzi. Credo che sia entrato in campo un'Inter diversa. Mica entra l'allenatore, il pareggio poi l'ha raggiunto e ti ripeto, secondo me poi abbiamo finito meglio di loro. Tirato fuori la rabbia. Però loro nel primo tempo con grande onestà ci avevano messo in grandissima difficoltà e probabilmente dopo il gol del vantaggio sono andati più vicini loro al secondo gol. Secondo me è con un bel gioco proprio più che con grande onestà. La sensazione di aver regalato un tempo al Milan questa sera. Ma guarda, io secondo me non eravamo neanche partiti malissimo perché la prima grande palla. Come non è partita malissimo? No, vero, stava prendendo tre gol. No, ha ragione. Guarda, ti assicuro che i primi 40 secondi l'Inter era veramente più forte in campo del Milan. Ok, mi hai convinto. Però eravamo sempre, secondo me, presenti mentalmente sul campo. Certo. Dopo il gol, che poi alla fine, come nel calcio succede, nasce da una palla persa, magari l'occasione meno costruita, meno nitida del Milan. Lì secondo me abbiamo sbandato un pochino, però poi il calcio è fatto anche così, insomma ci sono i momenti delle partite, siamo stati bravi negli spogliatoi a trovare motivazioni. Cosa vuol dire il calcio è fatto anche così? È una botta di fortuna in questo caso. Ma no, tirato fuori la rabbia, l'ha detto. Sì, la famosa rabbia che siamo riusciti a tirar fuori in questo caso, quindi vabbè. E comunque non è che c'è soltanto lui, non è ancora arrivato Allegri. Mi sa che allora ce lo dobbiamo lasciare in qualche modo questa diretta. Intanto c'è Mauro che sta per fare la domanda, intanto io ringrazio Pietro Lacorte che ci ha seguito al mixer e ovviamente Giorgio De Luca che continua ad assisterci al programma. Luca Cancellara, non so se ringraziarlo perché non mi porterà il panino con la porchetta, il peperone, la maionese, quindi vabbè. Non te lo porta perché ora che lo porta qua si raffredda, non è buono, non è buono. Sì, certo, ovviamente in studio c'è stato Luca Gattuso e Sergio Ferentino. Adesso non è ancora finito Stramaccioni, mi intristisce molto. Tu stai andando già via. No, ma figura, tanto va bene. Aspetta, allora. I nostri mediani costringeva, diciamo, Zanetti ad andare a stringere molto e a soffrire, e noi soffrivamo molto. Stramaccioni all'inizio era bello allegro, giovane, perché sono veramente giovane, sono appena arrivato. Sai cos'era? Era disincantato, faceva un po' quello che insomma, ma sì noi giochiamo perché ci piace giocare al calcio in queste robe qua. Adesso poco per volta si è intristito e non fa più battute. Che si può stare, però un errore interpretativo, anche noi poi l'abbiamo messo in difficoltà con la posizione di Guarin, ripeto, globalmente il pareggio è stato giusto. Mi ricollego a questo discorso perché poi è stato un po' il cambiamento. Io vorrei salutare le ragazze del Bar Tabacchi Rande che a Porco di Caserta, ecco questa cosa che ci hanno chiesto, ciao, vi stiamo seguendo, pensa che serata buca che hanno avuto, questa è stata una serata terribile da parte loro, cosa fate lì? Andate a divertirvi ragazze, non è il caso di stare lì. Ragazze del Bar Tabacchi Rande, vabbè, a Portico di Caserta, salutiamole le ragazze del Bar Tabacchi. No, è stato bello. Stasera no, interista o milanista. A noi questo ci riempie di gioia, non so voi. Adesso però vi lasciamo ancora con Stramaccioni che vi illuminerà d'immenso. Grazie a tutti, a risentirci. Vai.